Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo con un grande nome del giornalismo, un grande scrittore italiano, Enzo Bettiza, che ha appena pubblicato La distrazione, pubblicato da Mondadori, 496 pagine, 20 euro. Nel libro si parla della vicenda di una figura piuttosto complessa, quella di Peter Jarkovic, che troviamo novantenne all'inizio del libro. Si interroga sulla propria vita all'inizio del millennio, siamo nel 2000, il 31 dicembre, guarda indietro alla propria esistenza, un'esistenza insolita, avventurosa, che da giovane l'aveva portato dalla dissoluzione dell'impero austro-ungarico e poi in anni terribili come la vigilia dell'annessione austriaca al Reich, fino all'esperienza che segna la sua vita, cioè quella di entrare a far parte di un'organizzazione spionistica clandestina del Comintern, manovrata quindi da Mosca, dal Partito Comunista, l'OMS. Questa svolta avviene nel segno di un personaggio che segna la sua giovinezza e indirizza la sua vita, Bruno Amok, un intellettuale leninista votato alla causa che propizierà l'ammissione di Peter al collegio di Mosca dove avverrà la sua formazione da spia e poi seguirà le prime missioni del suo protetto. Ne esce un quadro indimenticabile dell'epoca, delle sue convulsioni, del clima implacabile della militanza staliniana, delle sue illusioni e delle sue tragedie. E ne parliamo adesso con l'autore. Buongiorno a Enzo Bettiza. Buongiorno, ecco. Enzo Bettiza, il personaggio del suo libro, proprio all'inizio del romanzo, si definisce un picaro. E il picaro normalmente è un personaggio coinvolto in avventure più grandi di lui. E quindi questa definizione che cosa rappresenta per Peter Jarkovic? Non so se picaro significhi una situazione più grande di quella di chi si definisce picaro in quel momento. Picaro è uno che vive in maniera o più grande di lui, o alla sua stessa altezza, o sotto la propria altezza, che vive in una maniera un po' scordinata, un po' scettica, un po' grottesca la realtà che la circonda. Senta, io ho trovato in questo libro, soprattutto nelle pagine in cui il protagonista ha i dialoghi con il suo maestro, per così dire, una certa influenza della Montagna Incantata, appunto nei dialoghi con l'intellettuale leninista. A un certo punto lei stesso scrive, evoca l'atmosfera di un seminario con un gesuita anomalo intento a dirigere gli esercizi spirituali di un novizio abbandonato alle sue parole temerarie e trasgressive. Ecco, è una mia sensazione casuale questa impressione che ho avuto io, o c'è qualcosa di più effettivamente? Magari c'è qualche influenza, indubbiamente Thomas Mann è stato uno dei miei autori prediletti, diciamo dei miei autori formativi prediletti. Direi che c'è qualche piccolo accenno anche al filosofo ungherese, del resto amico di Thomas Mann, Lukács, non è vero, c'è qualche piccola similitudine con Lukács, ma forse sia pure in una chiave più intensamente drammatica, forse il personaggio al quale si potrebbe riferire o rapportare il protagonista del libro è il Felix Krull di Thomas Mann, cioè il cosiddetto cavaliere d'industria, il picaro, quello che i tedeschi definiscono Hochstapler, cioè un uomo che vive imbrogliando un po' gli altri e anche se stesso. A un certo punto Amok fa una specie di esaltazione della cospirazione nei confronti della rivoluzione e parla di matrice settaria ed elitaria, estranea alla retorica dei diritti civili, una tabula rasa anomala, radicale, spoglia di alibi umanitari e democratici. Insomma, questo mi sembra un vero e proprio programma politico. Sì, è un programma politico di una minoranza rivoluzionaria, insomma, molto determinata, che potrebbe far pensare al leninismo o al bolscevismo, ecco, per non avvicinarsi agli ultimi tempi che abbiamo vissuto anche nell'Europa, nei Balcani soprattutto, dove nazismo e comunismo si sono spesso uniti in una forma che conosciamo e che ha avuto anche i suoi protagonisti in Bosnia, in Serbia. Ecco, questo personaggio di Jarkovic, con la sua sorta di infatuazione distratta verso la cospirazione leninista, può essere considerato il modello di una generazione di giovani che in quegli anni appunto decisero di passare al comunismo? Può essere considerato un archetipo, sia pure ingrandito grottescamente e drammaticamente, delle generazioni rivoluzionarie entre les deux guerres, fra le due guerre. E come mai questa generazione fu tanto distratta, per riprendere il titolo del suo libro? Non capiva verso che cosa andava incontro, quale era il modello che abbracciava? Questa generazione assume nel libro e nella caratterizzazione del personaggio assume una dimensione un po' metafisica, la distrazione come dimenticanza dei valori più umani dell'umanità e come tentazione e in parte realizzazione di un tipo di disumanità che si è verificata sia nel bolscevismo che nel nazionalsocialismo fra le due guerre. A proposito di questa disumanità, nel suo libro ci sono spesso cedimenti a quello che lei chiama il sesso ancillare, cioè questo giovane che si lascia andare con delle ragazzotte appunto Qui spunta e sbuca il lato anche picaresco, il lato grottesco, il lato un po' caricaturale del personaggio, in questo suo spesso incontrollato erotismo ancillare. Che è il retaggio anche di una specie di indifferenza di classe, di machismo distratto, o è anche un tentativo di salvaguardare uno spazio di personalità, uno spazio di privato nella propria vita votata alla causa? Ma direi piuttosto una sessualità un po' indifferente alla socialità. Uno dei capitoli principali del suo libro riguarda il soggiorno del protagonista nella casa di cura per malattie mentali. Qui arriva in preda una sorta di crisi di identità. Ecco, che cosa rappresenta questo passaggio nella vita di... Rappresenta un po' il clima, se vogliamo anche culturale, psicologico, che era molto diffuso in Europa negli anni 30. È anche una parodia della psicanalisi che all'epoca stava prendendo piede e affermandosi come guaritrice di tutti i mali psichici. E il direttore di quella casa di cura è un curioso personaggio, è un marxista che crede nell'anima e che detesta Sigmund Freud. Esatto, sì. È un personaggio che riassume in sé tutti i dati parodistici che io volevo vedere diffusi nell'epoca fra le due guerre e che si evidenziavano in maniera particolarmente pronunciata nelle terapie, nelle raccomandazioni e nella metafisica psicoanalitica. Bene, grazie a Enzo Bettiz, autore de La distrazione. Buona domenica. Interessante intrecciare la lettura di Bettiza con due grandi pensatori e scrittori del Novecento che si sono misurati con il tema della libertà. Uno è Isaiah Berlin, di cui Armando pubblica In libertà, conversazioni con Ramin Jahanbegloo, che è un filosofo iraniano, 272 pagine, 22 euro, tradotto da Emanuele Antonelli. Berlin è uno dei più grandi filosofi del Novecento, morto nel 97. Questo colloquio risale al 1988 e riprende in queste pagine molti dei temi che gli furono cari. Per esempio ripercorre la propria vita e la propria carriera da Riga e Pietrogrado, dove da bambino assistette alla rivoluzione russa, fino a Londra, dove appunto diventerà uno dei pensatori più autorevoli del secolo scorso. Si parla qua dei suoi maestri, di Machiavelli e di Spinoza in particolare, dei suoi avversari, per esempio Hannah Arendt, che Berlin non stimava, e della grande cultura dell'Ottocento e del Novecento, anche letteraria e musicale, sempre letta con le lenti della libertà. L'altro pensatore è Georges Bernanos. La rivoluzione della libertà è il titolo del suo libro, La Francia contro i robot e altri testi inediti, pubblicato da Cantagalli, 200 pagine, 15 euro, tradotto da Andrea Bellantone. Questi sono scritti della metà circa degli anni 40, nei quali il grande scrittore indica i rischi per la libertà derivante dalla nuova e imperante società delle macchine e dal conformismo che essa determina. Scrive infatti Bernanò che l'uomo delle macchine non è solo sotto la minaccia di appartenere un giorno alle macchine, egli appartiene già alle macchine, cioè appartiene a un sistema economico che lega sempre più la propria sorte a quella delle macchine, alla costruzione di macchine, allo sviluppo di macchine. E la soluzione per Bernanò è quella di avviare una rivoluzione spirituale analoga a quella di 2000 anni fa. Voglio dire, dice Bernanò, una nuova esplosione del cristianesimo. Abbiamo parlato di libertà in questi ultimi libri, allora vi segnalo un piccolo libro dedicato a una delle icone della lotta per la libertà, e cioè Guglielmo Tell. Lo troviamo in un curioso libro di uno dei maggiori scrittori svizzeri, Max Frisch, vissuto tra il 1911 e il 1991, si intitola Guglielmo Tell per la scuola, è pubblicato da Schirano, 94 pagine, 15 euro, ed è tradotto da Enrico Filippini. Si direbbe a prima vista una minuziosa ricostruzione di una data fatidica, quella del 1 agosto 1291, quando Guglielmo Tell si rifiuta di prestare omaggio a un simbolo del potere imperiale, un cappello imperiale messo su un palo. Assiste a questa scena un balivo, un magistrato, anzi un diplomatico dell'impero, che si trova in quella che per lui è una oscura e insopportabile vallata della Svizzera, la vallata di Uri. Questo signore non sogna altro che di tornare dalle sue parti, incontra solo gente noiosa che gli fa perdere del tempo, insomma vuole soltanto scappare, e proprio mentre è sulla via del ritorno assiste a questa scena del popolano che si rifiuta di prestare omaggio a quel simbolo. Deve per forza, nonostante il suo assoluto disinteresse e la sua assoluta noia, fingere quantomeno di imbufalirsi per questo episodio, e poi è ulteriormente esasperato dal figlio del popolano, il quale lo assilla per decantare le virtù del padre e proclamarne l'innocenza. A un certo punto perde veramente la pazienza e decide la famosa pena che è rimasta leggendaria: il padre dovrà colpire la mela posta sul capo del bambino. E questo libro racconta appunto questa vicenda, questa giornata, banalizzando un evento che diventerà storico, o sdrammatizzando questo evento fino a farci cogliere i singoli particolari, quasi fosse un episodio visto al microscopio, anche perché la linea narrativa del libro si intreccia con tante altre linee narrative che partono dalle note, fanno riferimento a oscuri libri dell'epoca, spesso si tratta di episodi anche abbastanza fantasiosi, se non del tutto inventati, con qualche incursione anche nella contemporaneità. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un tema che non manca di appassionare molti lettori, e che è quello del rapporto tra filosofia e morale. Vi segnalo perciò il titolo di uno studioso francese, Ruven Ogien, che si intitola Del profumo dei croissant caldi e delle sue conseguenze sulla bontà umana, 19 rompicapi morali, pubblicato dalla Terza, 256 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Gianluca Valle. Un libro dunque sull'etica, con uno scopo molto semplice, che così l'autore spiega: mettere a disposizione degli interessati una sorta di scatola di attrezzi intellettuali per affrontare il dibattito morale senza lasciarsi intimidire dai paroloni, dignità, virtù, dovere, eccetera, e dalle grandi dichiarazioni di principio. L'autore è convinto che le credenze morali di cui ciascuno è portatore possono anche essere scisse da un principio unico e incontestabile, per esempio Dio, la natura, il piacere, i sentimenti, la ragione, eccetera, ed è anche convinto che in campo etico, dice, ammettere una certa forma di pluralismo delle dottrine e dei metodi sia l'opzione più ragionevole. E il metodo che segue in questo libro è quello degli esperimenti mentali, una sorta di casi paradossali e estremi che consentono di affrontare alcuni dilemmi morali. Sostanzialmente l'autore contesta o circoscrive radicalmente il concetto di istinto morale, così che, scrive, viene meno il metodo standard in base al quale le grandi teorie morali dovevano venire giustificate facendo appello alle intuizioni morali. E che cosa c'entrano i croissant del titolo? Lo spiega l'autore quando ricorda un esperimento condotto in un centro commerciale americano, mi sembra, dal quale si desumeva che il semplice profumo del pane o delle brioche appena sfornate contribuisse a rendere più gentile la gente, più cooperativa. Come dire che il buon umore, scrive l'autore, dovuto alla percezione di un odore gradevole, determini i comportamenti degli individui. Insomma, basta poco per fare più buoni gli uomini e non sempre sono necessari i grandi principi. Tre libri vi segnalo adesso sulla bioetica, un tema del quale si parla spesso, talora anche un po' a sproposito, e sul quale forse è bene chiarirsi le idee. Due sono significativi di questi libri perché espressione della cultura religiosa protestante. Il primo è quello di Luca Savarino, studioso di bioetica e appartenente alla comunità valdese, Bioetica cristiana e società secolare, una lettura protestante delle questioni di fine vita. 134 pagine, 14,50 €. L'altro è di Ermanno Genre, che è un pastore valdese, introduzione alla bioetica, bioetica e teologia pastorale in dialogo, 94 pagine, 9,50 €, entrambi pubblicati da Claudiana. Interessanti questi due libri perché troviamo qua una posizione diversa da quella cattolica. Una posizione, spiega Savarino, che è basata sul pluralismo. Ritorna la parola di cui abbiamo sentito parlare da Eugène, un pluralismo che caratterizza il protestantesimo, la cui etica della responsabilità è fondata proprio, spiega l'autore, sul rifiuto dei principi assoluti e quindi nella sostanza, scrive l'autore, questa visione si concretizza nel pieno riconoscimento del diritto del paziente alla sospensione o alla non attivazione di trattamenti indesiderati anche nel caso dello stato vegetativo persistente e nel rifiuto di nozioni controverse come quelle di eutanasia passiva, come vedete una posizione piuttosto differente rispetto a quella ufficiale della Chiesa cattolica. Una testimonianza della rilevanza di questi temi nel dibattito pubblico troviamo nel libro curato da tre studiosi dell'Università di Urbino, Monia Andreani, Marcello Dei e Massimo Russo. Il libro si intitola Bioetica e dibattito pubblico tra scuola e società, è pubblicato da Unicopli, 256 pagine, 18 €. Troviamo qua una serie di saggi sulle scelte bioetiche, anche quelle più controverse, come il cosiddetto diritto alla morte, di cui abbiamo fatto un cenno poco fa. Interessante la testimonianza sulle reazioni nella scuola a questi temi e in particolare ai casi più clamorosi che hanno calamitato l'attenzione su questa disciplina e su questo ambito di discussione, cioè per esempio il caso di Eluana Englaro. Osserva Marcello Dei nel suo saggio come le conoscenze nelle scuole su questi temi siano superficiali e come non ci sia, al di là appunto di questi casi eclatanti, un vero interesse ad approfondirli più di tanto. E anzi sono semmai gli insegnanti che spingono un po' per affrontare questi temi, il cui approfondimento comunque è legato a quello delle materie scientifiche. Come dire che quanto più e meglio si studia la scienza, tanto più aumenta l'interesse verso i temi della bioetica. Ultimi arrivi. Cominciamo con due autori che hanno un pubblico affezionato. Il primo è un autore del secolo scorso, Sándor Márai, di cui Adelphi sta pubblicando le opere e del quale propone adesso Sindbad torna a casa, 194 pagine, 18 €, curato da Marinella D'Alessandro. Questa è una nostalgica rivisitazione dell'Ungheria attraverso un'avventura nel passato di uno scrittore ungherese, noto col soprannome appunto di Sindbad, che è considerato il maestro di Márai, cioè Gyula Krudi. L'altro autore, questo a noi contemporaneo, è Carlo Lucarelli, che ha pubblicato Strane storie con Schirà, 158 pagine, 15 €. Qui abbiamo la trasposizione di una serie di puntate radiofoniche nelle quali l'autore ha raccontato delle storie autentiche, ma assai curiose molto spesso e altrettanto spesso poco note. Per esempio quella di un congiunto dello stesso Lucarelli, il suo bisnonno, che era niente meno che il famoso Meucci, lo sfortunato inventore del telefono, anzi, come l'aveva chiamato lui, del teletrofono. Poi vi segnalo un romanzo storico di Valeria Montaldi. Questo è ambientato nella Venezia della metà del 300, La prigioniera del silenzio, pubblicato da Rizzoli, 430 pagine, 18 €. Abbiamo qui un'efficace ricostruzione della Venezia che si avvia a diventare una grande potenza mondiale e in quella città si svolge la complessa storia di cui ci parla l'autrice, che ripropone anche il tema della difficoltà a essere madre e donna, in particolare in quegli anni. Poi vi segnalo il libro di un'altra autrice, Lucilla Bossi, che è un'ex ballerina della Scala e presidente della Confederazione Parkinson Italia. Il libro si intitola Ogni giorno vale una vita, è pubblicato da Mondadori, 152 pagine, 16 euro, e tratta della convivenza drammatica dell'autrice con il male, appunto il Parkinson, manifestatosi alla Bossi giovanissima, che con il male convive ormai da 26 anni. E infine un libro legato alle attualità sportive, un libro di Michele Dalai che si intitola Contro il tiki taka, come ho imparato a detestare il Barcellona, 118 pagine, 10 euro, ogni commento mi sembra superfluo. E a questo punto il confettino. Ritroviamo oggi un personaggio classico, il barone di Munchausen, le cui avventure furono scritte da Rudolf Raspe e che hanno trovato un seguito in un scrittore umoristico americano, John Kendrick Banks. Il libro si intitola Mr. Munchausen, è illustrato da Umberto Mischi e tradotto da Margherita Petrillo, pubblicato da Bianco e Nero, 78 pagine, 9,50 euro. Qui troviamo un editore che riceve una telefonata dall'aldilà, anzi direttamente dall'inferno, dove il barone di Munchausen vuole lanciare qualche ulteriore avventura non meno strabiliante di quelle già note. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Paolo Corleoni e regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.